Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Cantun. Pochi giorni fa, per la precisione il 20 gennaio scorso, a Washington, Barack Hussein Obama ha pronunciato il suo secondo discorso di insediamento alla Casa Bianca. Un percorso di rielezione iniziato poco più di un anno fa con le primarie del Partito Repubblicano e la riconferma in campo democratico dell'attuale presidente. Dopo una dura campagna elettorale, l'America ha deciso, riconfermando Obama per altri 4 anni, 4 more years, dandogli di nuovo quel potere, un potere enorme a cospetto delle altre cariche pubbliche e delle democrazie occidentali, per attuare quel cambiamento, quel change promesso nel 2008. Dopo l'incertezza per le elezioni, l'America, di nuovo rappresentata da Obama, può tornare a farsi valere nello scacchiere internazionale. Ma quali sono le pedine di questo scacchiere? La Cina, ovviamente, i famosi BRICS che si affacciano al benessere con una crescita considerevole, l'Europa, già l'Europa. L'anno prossimo voteremo nuovamente per il Parlamento europeo, ma non sarebbe bello votare per qualcosa che conti un po' di più di un Parlamento che, diciamoci la verità, ha poteri alquanto limitati? L'Unione Europea, premio Nobel per la pace 2012, potrebbe aspirare ad essere qualcosa di più? Potremmo noi europei sognare di eleggere, come hanno fatto gli americani con Obama, un presidente europeo che per 4 o 5 anni possa rappresentarci tutti di fronte al mondo? Trasformare, insomma, l'Unione Europea come la conosciamo negli Stati Uniti d'Europa. Stati Uniti d'Europa. È troppo? Ci stiamo spingendo troppo in là pensando ad un'unica superpotenza unita politicamente di 500 milioni di abitanti e con il PIL più alto del mondo? No. Perché di Stati Uniti d'Europa se ne parla da decenni. Ma cosa racchiude questa idea? Potrà venire realizzata in uno scenario di disaffezione provocato da un'Europa poco politica e troppo economica, dove riaffiorano sempre di più nazionalismi e separatismi vari? Su questo filone, i vescovi europei riuniti nel COMECE, Commissione degli Episcopati della Comunità Europea, hanno recentemente prodotto il documento Una Comunità Europea di Solidarietà e di Responsabilità. Non si tratta di un documento confessionale né di dottrina, ma di un contributo ottimistico ad un dibattito che la crisi ha rallentato di molto. In questo documento i vescovi europei non solo mostrano che anche loro all'Europa ci tengono, ma che esiste un'altra idea di Europa possibile, dove, citando le parole dei vescovi, accanto al principio della libertà del mercato e lo strumento di un'economia competitiva, ci sia spazio anche per il principio di solidarietà e per i meccanismi della giustizia sociale. È con noi in collegamento telefonico il professor Marco Mascia, cattedra europea Jean Monnet, sistema politico dell'Unione Europea e professore all'Università di Padova. Grazie per essere con noi, professore. Grazie a voi per l'invito. Stati Uniti d'Europa. Il belga Guy Verhofstadt, ex primo ministro e attuale capogruppo liberal-democratico al Parlamento europeo, nel 2005, nel suo libro Stati Uniti d'Europa, il titolo, ha dipinto uno scenario di un'Europa forte che centralizza alcune funzioni degli stati, a partire dalla diplomazia, dalla sicurezza, alla giustizia, ma anche tutte le politiche economico-sociali. Scusi la franchezza, queste istanze appartengono alla categoria dei sogni realizzabili o c'è qualcosa di concreto o qualcosa di possibile? No, io direi che non sono sogni irrealizzabili, ma è un percorso che l'Europa sta compiendo. Per esempio nel settore della politica estera e di sicurezza comune e quindi nel settore della diplomazia, il Trattato di Lisbona ha fatto importanti passi in avanti. Penso alla creazione di un Ministero degli Esteri dell'Unione Europea, no? Il cosiddetto Servizio Europeo per l'Azione Esterna. Penso al rappresentante per la politica estera e gli affari di sicurezza, all'alto rappresentante, alle cosiddette cooperazioni strutturate permanenti nel settore della difesa, che potrebbero portare alla creazione di un, non dico ancora di un esercito europeo, ma insomma di una forza di polizia militare dell'Unione Europea. Quindi ci sono dei segnali positivi che vengono dal Trattato di Lisbona. È chiaro, ora la grande sfida è dare attuazione alle previsioni contenute in quel trattato. Quindi possiamo sognare un futuro, un presidente degli Stati Uniti d'Europa, espressione o del PPE o del PSE, scelto organicamente con un voto da parte di tutti gli aventi diritto dell'Unione Europea? Possiamo sognarlo? È una prospettiva realizzabile questa a lungo termine? È sicuramente una prospettiva realizzabile, perché da tempo che si parla soprattutto della elezione del Presidente della Commissione Europea. Attuale Presidente della Commissione Europea, come è noto, è Barroso. Con il Trattato di Lisbona è stato creato anche il Presidente del Consiglio Europeo, che è Van Rompuy, Herman Van Rompuy. Quindi si potrebbe anche pensare ad un Presidente unico dell'Unione Europea che sia allo stesso tempo Presidente della Commissione Europea e Presidente del Consiglio Europeo, e che sia eletto in occasione delle elezioni per il Parlamento Europeo. Non è un sogno, forse ci arriviamo già con le elezioni del 2014, ma se non saranno queste, sicuramente le successive. Ecco, rimaniamo alla nostra attuale Europa, quella che conosciamo adesso. Partiamo un po' dalla pars danstruens prima di andare alla pars contruens. Qual è il suo più grande difetto, il difetto di questa Europa? Diciamo che l'Unione Europea ha allo stesso tempo caratteristiche tipiche della statualità e ancora caratteristiche tipiche della classica organizzazione internazionale. Quanto alle caratteristiche della statualità, l'Unione Europea per esempio ha una moneta unica, ha una cittadinanza europea, anche se è ancora una cittadinanza derivata, ma insomma ha una cittadinanza europea, ha istituzioni sopranazionali che decidono, ha affermato il principio della supremazia del diritto dell'Unione sul diritto degli Stati membri. Quindi questi sono tutti aspetti positivi. Diciamo che gli aspetti negativi, insomma i difetti, sono quelli ancora che vedono l'Unione Europea come una classica organizzazione internazionale. Quindi l'Unione Europea ha al suo interno delle istituzioni intergovernative che frenano lo sviluppo sopranazionale del processo di integrazione, e poi l'Unione Europea non ha ancora il monopolio dell'uso della forza, non ha ancora una sua vera Costituzione, quindi, tanto per e non intenderci, ha ancora un sistema politico pienamente democratico. Questi, se vuole, sono i tre difetti principali. Quindi lei, insomma, al primo punto dei difetti, la conflittualità fra i governi che si ritrovano dell'Europa e gli organismi europei eletti come il Parlamento Europeo e i derivati come la Commissione. Va bene, ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Se rimango dentro al letto, sai, non voglio crescere più. Non è questo il mondo adatto a noi, non voglio crescere più. Parlatori in compagnia non li ascolto più. Troppe volte voglio andare via. Ho pagato il conto e non ci sto, non voglio crescere più. Se c'è un treno che non prenderò, non voglio crescere più. Quei progetti che non so, che non farò mai. Io scadenze lunghe non ne ho, no, no, no, no. Non è la vita che mi cambierà, non voglio crescere più. Non è la vostra finta libertà, non voglio crescere più. Io non voglio grasso ai fianchi, coi capelli tutti bianchi, quando il passo lento arranca con le gambe sulla panca. Io non cresco più. E mentre guida con papà, non voglio crescere più. E questa notte lui non tornerà, non voglio crescere più. Resto chiuso in casa mia, prima di ogni nostalgia. Io non voglio Prato Croce, così sia. Crescere più, il disegno è spicciolo, non voglio crescere più. Il denaro è il crimine, se il lavoro è un limite, io non voglio collezioni, niente conti delle azioni, non coltivo un'ambizione, cambio sempre convinzione, dentro solo una canzone, io non cresco più. Blu Radio Veneto. Il bene di tutti, parliamone. Bentornati carissimi ascoltatori al bene di tutti, parliamone. Stiamo parlando per l'appunto di Europa e di sogni, speranze, possibilità di Stati Uniti d'Europa, e lo stiamo facendo con il professor Marco Mascia dell'Università di Padova. Grazie per essere con noi, professore. Grazie a voi l'invito. Mi ricordo qualche anno fa, quando si è dovuto votare in alcuni paesi la Costituzione europea o lo sviluppo di tanti movimenti contro l'Europa, penso ai paesi del nord Europa, ma anche qui in Italia ci sono dei movimenti politici che fanno della loro forza, insomma, la propria contrarietà all'Unione Europea. Perché così tante resistenze a questo organismo sovranazionale che sta sempre di più diventando uno Stato vero e proprio? Diciamo che nell'Unione Europea in questo momento di forte crisi economica tendono a prevalere gli interessi nazionali degli Stati membri, in particolare degli Stati membri più forti. Non so, pur essendo immersi nell'interdipendenza, nella globalizzazione, in estesi processi di internazionalizzazione, gli Stati nazionali non vogliono cedere ulteriore sovranità all'Unione Europea. E il problema, secondo me, è un problema di classe politica, di classe dirigente, cioè noi abbiamo una classe politica che è inadeguata oggi a gestire i processi di mutamento in atto, che richiedono un trasferimento di sovranità, da un lato verso le istituzioni sopranazionali e dall'altro verso gli enti di governo locale e regionale. Bene, al di là delle diversità politiche, al di là dei singoli governi, c'è anche una questione riguardante i cittadini. 150 anni fa si diceva fatta l'Italia, facciamo gli italiani. Non potremmo dire adesso fatta l'Europa, facciamo gli europei? Certo, potremmo anche dire che gli europei ci sono i cittadini europei. Forse questi cittadini europei non hanno ancora piena consapevolezza di essere un popolo europeo, però non c'è dubbio che questi cittadini europei oggi si riconoscono in un medesimo paradigma valoriale, che è quello contenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nel diritto internazionale dei diritti umani che è seguito. Il problema, come dicevo prima, probabilmente è più quello di formare una nuova classe dirigente europea. Ci sono dei dati, dei sondaggi di Eurobarometro, l'agenzia dell'UE che appunto svolge questi sondaggi, che per esempio dicono che il 76% dei cittadini europei vogliono una politica estera e di sicurezza comune dell'Unione Europea, vogliono un esercito europeo. Quindi abbiamo bisogno, ripeto, di formare una nuova classe dirigente europea, e su questo fronte devo dire che le università in Italia, ma anche negli stati membri, negli altri stati membri dell'Unione Europea, stanno investendo risorse su queste attività formative. Rimaniamo sulla cultura, dopo torniamo comunque anche agli sforzi verso l'integrazione del nostro paese e dell'università. Che ruolo può ricoprire una cultura comune? Penso per esempio ai giovani, non solo ai giovani che hanno la fortuna di vivere un'esperienza di Erasmus, ma anche i giovani che conoscono l'inglese, che guardano tutti più o meno gli stessi show, che conoscono sempre di più le lingue. Si può creare in loro una cultura di appartenenza generale all'Europa più che ai propri paesi? Cioè chiaramente rimane l'amore per il proprio paese, ma penso per esempio agli Stati Uniti, tutti sono fieri di essere texani, come sono fieri di essere della West Virginia, come sono fieri di essere della California, però sono anche fieri di essere americani. Sì, potremmo dire che in questo periodo non penso i giovani, potremmo dire in generale, insomma, le persone che vivono nei paesi membri dell'Unione Europea hanno perso un po' di fiducia nei confronti dell'Europa, ma soprattutto a causa dei governi, perché i governi nazionali scaricano sull'Unione Europea responsabilità che non sono dell'Unione Europea ma sono degli Stati membri. Quindi c'è questo agire che è politicamente scorretto da parte dei governanti nazionali. I giovani, secondo me, sono i veri protagonisti dello sviluppo del processo di integrazione dei prossimi decenni, e per questo la loro formazione è fondamentale. E devo dire che questo processo di formazione alla cultura europea, all'integrazione europea, avviene già nelle scuole medie, nelle scuole superiori. Penso al programma ministeriale che si chiama Cittadinanza e Costituzione, che appunto ha il compito di promuovere l'insegnamento sull'integrazione europea e sui diritti umani in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Noi abbiamo gestito quest'anno un progetto europeo dal titolo Apprendere l'Unione Europea a scuola, l'abbiamo fatto a livello nazionale, abbiamo coinvolto oltre 40 insegnanti con il Ministero della Pubblica Istruzione, e devo dire che abbiamo riscontrato, abbiamo interagito con un personale docente altamente preparato su questi temi e quindi in grado di formare una nuova classe dirigente che sappia vivere e governare all'interno dell'Europa. Quindi da una parte l'integrazione politica con l'avanzamento dei trattati, il sogno di un unico Presidente europeo che unisca il ruolo della Commissione del Presidente del Consiglio, e dall'altra l'integrazione dal punto di vista scolastico, dal punto di vista della formazione. Abbiamo un minuto, le domando così una cronistoria futura, probabile, magari anche un po' ottimistica, del nostro continente fra 5, 10, 20, 50 anni, insomma, cosa potremmo succedere, come ci ritroveremo come europei? Secondo me bisogna da un lato mettere in campo una politica di coesione economica, sociale e territoriale a livello europeo, fondata sul rispetto dei diritti umani. Non dimentichiamoci che oggi la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Dall'altro bisogna promuovere l'integrazione partitica europea se vogliamo veramente fare l'unione politica dell'Europa. Ci vuole una maggiore presenza di partiti sopranazionali a livello europeo, e naturalmente ci vuole il coinvolgimento della società civile, cioè l'integrazione economica è stata fatta con i grandi gruppi di interesse economico, l'integrazione politica si farà con i cittadini europei, quindi con le organizzazioni della società civile e con i partiti politici europei. Grazie professore per le parole che ci ha dato, per la testimonianza, per questi auspici ottimistici, e vedremo nei prossimi anni se corrisponderanno, come speriamo, al vero. Grazie. Grazie a voi per avermi telefonato, grazie. Carissimi ascoltatori, l'appuntamento con noi è la settimana prossima, sempre sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltarci sul podcast sul nostro sito o per contattarci, mandarci una mail per suggerimenti, critiche, elogi o segnalazioni, mandatecela all'indirizzo redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, alla prossima. Avete ascoltato? Il bene di tutti, parliamone. Rubrica realizzata dalla Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova.